L'altro pianeta di Laura Bettini. Buon pomeriggio, una nuova puntata dell'Altro Pianeta che dedichiamo al protocollo di Milano, ovvero questo progetto che è stato lanciato nel corso della settimana al quinto forum del Barilla Center for Food and Nutrition che si è tenuto presso l'Università Bocconi, appunto, di Milano. Ne parliamo con Riccardo Valentini, che è stato relatore del protocollo al forum della Barilla. Valentini, tra l'altro, è stato anche vincitore del Premio Nobel per la Pace 2007 con l'IPCC, l'organismo per lo studio dei cambiamenti climatici che nacque, ricorderete, sotto l'egida dell'ONU. Riccardo Valentini, direttore della divisione impatti del clima presso il Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, anche lei oggi al Barilla Center for Food and Nutrition. Intanto le chiedo, che cos'è il protocollo di Milano? Sì, il protocollo di Milano è un'azione concreta, la richiesta di azioni concrete ai governi, è un'offerta che diciamo che il Barilla Center for Food and Nutrition sta facendo alla società civile, alle imprese e con uno sguardo ovviamente ai governi che dovranno, si spera poi, implementarlo, che contiene sostanzialmente tre cose concrete, tre azioni concrete. Da una parte ridurre lo spreco alimentare, questo è un problema che è drammatico perché noi buttiamo in spazzatura, noi paesi diciamo più ricchi, circa il 30% dei nostri fabbisogni alimentari, quindi il protocollo di Kyoto, si discute di Milano, si pone come prima azione importante la riduzione del 50% dello spreco alimentare entro il 2020, quindi qualcosa di concreto che noi chiediamo ai governi di impegnarsi a fare attraverso appunto dei piani di azione nazionale. Questo appunto è un tema, come dicevamo, molto importante. Consideriamo che circa, per esempio in Italia, noi buttiamo in spazzatura 20 milioni di tonnellate di cibo, circa 76 kg per ogni persona, quindi sono numeri grandi, non solo per il fatto etico in un momento in cui poi soprattutto le famiglie soffrono il morso della crisi economica, quindi, ma anche un problema ambientale, perché questo cibo che noi coltiviamo, quindi sottraiamo risorse alla terra, spendiamo energia, fertilizzanti, lo trasportiamo, acqua che consumiamo per produrre, poi lo troviamo, lo buttiamo. Lei pensi che abbiamo calcolato che in Italia, per esempio, tutta l'acqua che noi utilizziamo per produrre questo cibo che poi viene buttato sarebbe sufficiente al fabbisogno di 5 milioni di famiglie italiane, come anche per esempio dal punto di vista delle emissioni di gas serra, no? Del prodotto di riscaldamento globale. Questo cibo buttato nella sua coltivazione emette una quantità di gas serra, quindi del tutto inutile, diciamo, di cui non avremo bisogno, che è pari circa al 25% dell'obiettivo di riduzione delle emissioni della Comunità Europea per l'Italia. Poi ci sono altre due azioni sì, ancora in questo protocollo che pure sono importanti. Uno di questi è il paradosso, diciamo, dell'obesità e della malnutrizione. Noi abbiamo nel mondo 842 milioni di persone che non hanno cibo e circa 1,5 miliardi di persone che sono sovrappeso o obese. E la cosa che è particolare di questo problema è che muoiono più o meno 30 milioni di persone o per fame o per obesità. Quindi alla fine, diciamo, per gli opposti eccessi abbiamo la stessa mortalità annua. E per l'Italia è un problema drammatico, perché l'Italia è il primo paese europeo per obesità infantile. È molto interessante perché in realtà noi siamo, come cittadini europei, dal punto di vista degli adulti, siamo quelli che hanno meno obesità e sovrappeso tra tutta la popolazione europea, ma per i bambini passiamo straordinariamente al primo posto. Questo cosa ci dice? Che tradizionalmente l'italiano medio, oggi adulto, ha vissuto, diciamo, nell'era della dieta mediterranea, del cibo sano, della campagna, insomma, e poi negli ultimi generazioni, quindi con una nuova generazione di bambini che crescono, si è in qualche modo industrializzato e commercializzato il cibo all'estremo, con le grandi distribuzioni, le grandi multinazionali. Parallelamente, mi permetto di interromperla, sicuramente c'è stata anche una riduzione della possibilità per i bambini di giochi all'aria aperta, spazi ricreativi, sportivi e così via, cioè sempre meno attenzione a questo aspetto. Ha proprio ragione, questo è un altro dei fattori importanti, è il fatto che i nostri bambini stanno troppo tempo di fronte alla televisione, ai videogiochi e non fanno più attività fisica. Diffondere le conoscenze scientifiche sui pericoli, perché questa obesità infantile in realtà riduce molto le aspettative di vita dei giovani che diventeranno adulti. Nella classe di obesità più alta c'è il rischio di una riduzione di 10 anni di aspettativa di vita per un bambino obeso. Terzo pilastro, diciamo, è l'uso, diciamo, non sostenibile della terra agricola. Ai tempi della civiltà egizia nel pianeta vivevano 20 milioni di persone, insomma, no? Quindi c'era un grande spazio a disposizione, no? E oggi siamo arrivati appunto a 7 miliardi. Quindi è chiaro che in questi ultimi 50 anni abbiamo dovuto correre dietro a questo incremento demografico, a sfamare le persone nel mondo, eccetera. Però a che costo? Quindi cosa si propone questa terza azione, diciamo, del protocollo? Di guardare alla nuova agricoltura sostenibile. Non possiamo continuare in questo modo e dobbiamo quindi soprattutto stare attenti a come usare la terra nel futuro, perché la terra sta diventando un bene prezioso. Non possiamo convertire ancora altra terra, diciamo. Ora, che succede? I due grandi fenomeni sono, da una parte, il fenomeno del land grabbing, cioè questo accaparramento delle terre che servono soprattutto per produrre foraggio per gli animali. Quindi questo è un po' una distorsione anche, questo dovuto anche a fenomeni di grande scala, sembra, diciamo, insignificante, ma in realtà è fondamentale il fatto che la Cina abbia cambiato la dieta. Il cittadino cinese consumava 40 kg di carne all'anno mediamente negli anni 70, oggi consuma 120. Quindi quando 1.200.000.000 di persone si muovono, diciamo, cambiano il pianeta. E poi l'altra questione riguarda i biocarburanti, cioè invece di dar da mangiare alle persone, sostanzialmente stiamo dando da mangiare o agli animali o alle macchine, nel senso produciamo carburante per le macchine, nel senso produciamo agricoltura che poi servirà per produrre bioetanolo o carburante. Allora, il protocollo di Milano cosa dice? Dice appunto, mettiamo un punto fermo su questa agricoltura, diciamo, insostenibile, cerchiamo di renderla più sostenibile attraverso delle buone pratiche, soprattutto che riducano l'impatto ambientale, e pone anche un numero, dice non utilizziamo più del 5% delle energie rinnovabili dei paesi per biocarburanti. Eccoci di nuovo insieme, abbiamo parlato finora con Riccardo Valentini, docente e tra l'altro vincitore, ricordiamo, del Premio Nobel per la Pace 2007 con l'IPCC, del protocollo di Milano che appunto è stato elaborato all'interno del Barilla Center for Food and Nutrition e che Valentini stesso ha presentato al quinto forum di questo centro di ricerca nato all'interno appunto per volontà della Barilla. Dalla giornata, da questo forum, che cosa parte quindi e a chi è diretta la richiesta? Sì, diciamo, questo protocollo di Milano nel metodo è molto innovativo, perché allora, intanto, diciamo, noi abbiamo una grande opportunità che è Expo 2015, no? Quindi noi vorremmo lanciare questo protocollo che sia approvato dai governi proprio durante l'Expo 2015. E quindi, diciamo, il percorso è un percorso, diciamo, che alla fine è istituzionale, perché è rivolto, diciamo, ai governi, e il governo italiano, diciamo, dovrà essere colui il quale prende il testimone, diciamo, di questo protocollo. Avremo la presidenza europea italiana, il semestre di presidenza e poi l'Expo 2015. Però il metodo è nuovo perché vede, nel passato ci sono stati tanti protocolli, il più famoso protocollo di Kyoto, no? Quindi che poi, diciamo, ha avuto luci e ombre. Ci rendiamo conto che questi sistemi, diciamo, un po' calati dall'alto, no? Questi protocolli che vengono sviluppati a livello di Nazioni Unite richiedono un tempo molto lungo per essere approvati, e con molta difficoltà, perché il meccanismo delle Nazioni Unite nel caso dei protocolli ambientali in particolare avviene per consenso, quindi non c'è una votazione. Questo purtroppo è un bene, un male, diciamo, potremmo discuterlo, ma il meccanismo delle Nazioni Unite è che ci vuole il consenso di tutti i paesi. E questo, diciamo, fa sì che la ricerca di questo consenso porta a stenta, a compromessi, a ribasso in continuazione. Quindi qui sì, invece il metodo è nuovo. Noi chiediamo prima alla società civile Adesso apriremo quindi un forum, è già aperto il forum sul sito proprio di Milan Protocol, in cui imprese, cittadini, associazioni, tutti possono contribuire su questo protocollo, portare anche modifiche, suggerimenti. E in questo periodo quindi che ci porteremo fino a Expo, noi ci faremo carico poi di offrire questa consultazione, quindi dal basso, quindi partecipata dal basso ai governi. Noi pensiamo che questo sia un metodo nuovo, nel senso che i governi devono sentire questa pressione dal basso, da parte dei consumatori, dei cittadini, della società civile, e che sia il modo migliore, forse perché si sbrighino, insomma, che si dia una mossa. Quello che noi proponiamo sono tre cose semplici, concrete, che si possono fare, quindi non stiamo parlando di cambiare il mondo in senso lato, no? Perché magari c'è sempre questa tendenza all'italiana, no? Sì. Vabbè, allora non si può fare perché dovremmo cambiare tutto. Ben altro, il famoso benaltrismo. Benaltrismo, no. Qui diciamo tre cose. Vi impegnate, è volontario ovviamente, non è che, quindi questo aspetto è pure importante, per cui i governi che ci stanno, insomma quelli che non ci vogliono stare ovviamente non ci staranno. E quindi è volontario ed è, diciamo, quindi un approccio concreto di cose semplici che si possono fare, con obiettivi, con dei target precisi. E quindi speriamo che questo sia un modo per scuotere le coscienze e attivare un processo virtuoso. L'opportunità c'è, perché l'Expo 2015 è una grande vetrina, è il momento della firma, è la grande vetrina per l'Italia. L'Italia gli viene riconosciuto un ruolo leader nel mondo nel settore agroalimentare, e da questo noi possiamo riaffermare veramente che siamo un paese, diciamo, che ha a cuore il pianeta, che quindi non pensa solo alle piccole cose nostre, diciamo, del nostro paese piccolo, ma che ha anche una capacità di incidere sulle grandi scelte del pianeta. Questo è un po', diciamo, un punto importante. Le chiedo un'ultima cosa, che è la relazione con i cambiamenti climatici, perché lei comunque è un esperto di questo, quindi come mai anche lei è qui a sostenere il protocollo di Milano? Ma sono qui intanto perché, vede, quando parliamo appunto di costi ambientali, dello spreco del cibo, dell'agricoltura non sostenibile, degli allevamenti intensivi, questi sono fattori che stanno contribuendo a quello che noi chiamiamo il riscaldamento globale, no? Perché le emissioni, diciamo, di gas a effetto serra provengono anche dall'agricoltura, intensiva e dagli allevamenti. Basti pensare al metano, per esempio, che è un gas che produce effetto serra, oppure il protossido d'azoto, che è un altro gas che è legato ai fertilizzanti, che viene emesso dai suoli, diciamo, che sono fertilizzati. Quindi questi gas cosiddetti a effetto serra producono riscaldamento. L'agricoltura gioca un ruolo molto importante. Basti pensare, per esempio, che gli allevamenti da soli sono più importanti dei trasporti globali nell'inquinamento atmosferico. Quindi dobbiamo quindi porci anche qui un obiettivo di agire sull'agricoltura per ridurre poi il peso ambientale sull'effetto serra. La deforestazione tropicale è anche associata a questo. La deforestazione tropicale contribuisce circa a un 15% delle emissioni di gas serra globali, sono circa 13 milioni di ettari ogni anno che vengono deforestati. Consideri che l'Italia ha un patrimonio di 10 milioni di ettari di foreste, quindi più dell'Italia viene deforestato ogni anno. E quindi, diciamo, questo per esempio è un altro perché vengono deforestate, poi, diciamo, a parte per il legname, ma quella è oggi diventata una misura più marginale dell'economia legata alla foresta tropicale, e più la terra necessaria per l'agricoltura. Nei paesi tropicali questa necessità di espandere, diciamo, l'agricoltura, spesso per dar da mangiare a paesi per esempio, adesso non voglio demonizzare, ma insomma la Cina o altri paesi, diciamo, che hanno bisogno di terra. Sì, faceva l'esempio anche dei paesi della penisola arabica poco fa, no? Penisola arabica, esattamente. Quindi la deforestazione è anche un risultato di un bisogno di terra, dell'agricoltura. Quindi, come vede, tutto questo poi si lega poi al sistema climatico, e oggi siamo molto preoccupati di questo, perché purtroppo la conferenza delle parti di Varsavia ancora non ha dato una risposta a quello che dovrà essere un accordo globale sulle riduzioni delle emissioni, e quindi siamo ancora in una situazione di stand-by, diciamo, di molto, molto lento il negoziato, non va avanti, quando invece la scienza, e qui, diciamo, la nostra comunità scientifica, ha le idee abbastanza chiare. Cioè, i dati sono, è uscito un mese fa il rapporto sul clima dell'IPCC, l'Intergovernmental Panel on Climate Change, di cui anch'io faccio parte, e diciamo, i dati sono abbastanza impressionanti, nel senso che noi in questo momento siamo sullo scenario peggiore, più pessimista del cambiamento climatico, cioè su come stanno andando le emissioni di anidride carbonica, siamo sullo scenario che tecnicamente si chiama RCP 8.5, che vuol dire che c'è un forcing energetico di 8,5 watt in metro quadro in aggiunta a quello, diciamo, normale, che produrrà un riscaldamento tra i 4 e i 6 gradi centigradi. Ora, 6 gradi centigradi nei modelli di impatto, eccetera, rappresenta uno scenario veramente catastrofico, diciamo, che parliamo di innalzamenti di mari di ordine di metri. L'ordine di quanti anni? Questo, diciamo, entro il 2080, diciamo, però già entro il 2050 ci saranno grossi fenomeni, sconvolgimenti, quindi... Sabbia non è stato un... non ha aperto grandi prospettive, insomma, mi pare. Guardi, ci sono state piccole cose che possono essere considerate positive, ma in realtà i paesi... non c'è leadership mondiale, vede, questo è un tema... adesso questo è un discorso che riguarda... Sì, perché c'è per altre cose, c'è per la guerra in Siria, magari c'è per... Guardi, in questo momento, diciamo, c'è una, come dire, una cogestione del mondo, possiamo chiamarla così, una sorta di gestione cooperativa. Non c'è più leader, gli Stati Uniti, non c'è più, diciamo la verità, non per colpa di Obama, per carità, insomma, perché il mondo ormai è andato così. Tra l'altro gli Stati Uniti non sarebbero stati un protagonista però su questo particolare tema del cambiamento climatico. Ma c'erano molte speranze con Barack Obama che potesse... Purtroppo c'è questa gestione cooperativistica del mondo, oggi c'è la Cina da una parte, la Russia dall'altra, gli Stati Uniti e poi gli altri, Brasile, India, che Corea del Sud, che stanno, come dire, a fianco a tutto. Però manca, ecco, questo leader mondiale che spinga tutti, diciamo, un accordo. Ricalcando un po', adesso qui chiudiamo, ricalcando un po' l'idea del protocollo di Milano, il leader qui potrebbe essere il popolo mondiale, insomma. Esatto, questo è proprio quello che noi pensiamo. Pensiamo che il futuro, diciamo, di questi accordi internazionali passi dai cittadini. Ormai, diciamo, la vecchia strada, diciamo, degli accordi Nazioni Unite sembra non funzionare più tanto bene. Quindi crediamo molto nel processo di partecipazione. Tutti quindi possono adesso interagire sul sito web, portare suggerimenti. E speriamo che questo nuovo metodo sia quello per cui i governi veramente si sentano con le spalle al muro. Dobbiamo metterli con le spalle al muro questa volta. Grazie a Riccardo Valentini per essere stato con noi. Ringraziamo il nostro ospite, ringraziamo tutti voi per essere stati con noi fino a questo punto. L'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora. Da Laura Bettini, un buon proseguimento d'ascolto.